Parliamo di uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Celebrazione di Bologna giovedì 5 febbraio alle 21, quando il sipario si aprirà su Operaccia satirica, Onore i padri e paga la psicologa. In scena ci saranno Paolo Rossi, che racconterà tante cose, come in una sorta di confessione pubblica, in una serata i cui proventi serviranno per pagare i debiti contratti con una psicologa. E abbiamo al telefono con noi proprio la psicologa, e cioè Caterina Gabanella. Esatto, sì, abbiamo pensato di fare una terapia di gruppo col pubblico affinché Paolo mi pagasse. Poi devo dire la verità, io penso che in questi tempi difficili il gruppo accelera la guarigione, quindi così ho l'opportunità di fare terapia anche al pubblico, possiamo evolverci tutti assieme attraverso la storia di Paolo, con tanta improvvisazione ma anche tanto repertorio. Tu fai una terapia rivolta al protagonista o vuoi curare il pubblico? Entrambi, attraverso il protagonista però. Ho capito. Diciamo che il pubblico sarà partecipe. Avrà degli esercizi da fare, sarà coinvolto, sarà uno spettacolo senza quarta parete con un bel margine di improvvisazione. Alla fine della tua terapia il paziente guarisce o acquista solo consapevolezza di qualche disturbo o inquietudine? Diciamo che usciamo con domande nuove, tutti, sia il paziente sia la psicologa che diventa a sua volta paziente curando gli altri. Avremo domande nuove e diciamo che la cura saranno delle iniezioni di poesia di Brecht. È una formula veramente molto interessante, particolarmente insolita, in cui praticamente, se ho ben capito perché sto andando per immaginazione anch'io, il protagonista nel raccontare tutte queste cose apre un dialogo con te che sei la psicologa. Giusto. Che lo sta avendo in cura da molto tempo, in questo confessionale aperto in cui alla fine il pubblico forse non partecipa in maniera interattiva ma si sente coinvolto. Esatto, comunque agisce, reagisce, manda l'energia, diciamo l'occhio clinico. Il pubblico ha molte facce, sia pubblico, sia giuria popolare, sia paziente. Alla fine dello spettacolo emetteremo una diagnosi su Paolo, con delle poesie cercheremo di guarire tutti, sia il paziente, sia il pubblico, sia la psicologa. Chi viene a vedere lo spettacolo vede in scena Paolo Rossi, Caterina Gabanella e due musicisti. Sì, due fantastici musicisti, Emanuele Dell'Aquila e Alex Orciari, che sono la sua colonna sonora vivente, diciamo. Paolo non vuole pagare Spotify e quindi si porta dietro due musicisti che lo conoscono molto bene, lo interpretano. Sappiamo che Paolo Rossi non vuole pagare nessuno da questo spettacolo. Ascolta, ma la tua figura in scena sarà più professionale o invece avrà dei risvolti anche teatrali? Ci saranno dei momenti teatrali, però ci saranno anche dei momenti veramente da psicologa che analizza. E però a differenza degli psicologi freudiani o junghiani che ascoltano molto e scrivono, è una psicologa un po' incontinente, diciamo, emette diagnosi continuamente. Sei una etichettatrice seriale. Esattamente, esattamente, sì. Parliamo un attimo anche di te al di fuori di questo spettacolo, perché tu nella tua vita di attrice sei nel cast del film di Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis. Vuoi dire due parole anche su questo lavoro che stai conducendo? Sì, è un film molto bello, particolarmente onirico, direi un esperimento nuovo rispetto ai film italiani che siamo abituati a vedere. È una dinamica, un rapporto padre-figlio. Questo figlio però conosce realmente suo padre dopo che è morto, perché verrà a contatto col fantasma del padre e Augusto Fornari, il protagonista del film, ricomincerà a vivere nel momento in cui conoscerà il fantasma di suo padre e riuscirà a innamorarsi di Lara, che è il mio personaggio, che è una ragazza molto chiusa, una DJ. Il loro rapporto inizia con uno scontro, ma poi ci sarà del tenero. E poi, già che stiamo divagando, piccola nota biografica su di te, tu ti stai affermando come attrice, ma hai un passato come atleta di tutto rispetto, perché hai fatto parte della nazionale italiana di pattinaggio artistico. Sì, diciamo che questo passato da sportiva mi rende molto attiva e diretta. E questa è una bella combinazione con Paolo Rossi, che diciamo che è molto poetico, viaggia, libera. Io lo riporto sempre alla concretezza, quindi abbiamo una buona combinazione scenica e per questo devo ringraziare il mio passato sportivo. E sì, sono anche laureata in psicologia comunque, quindi ecco. Nella mia follia delle diagnosi c'è un briciolo di verità. C'è un briciolo di verità e di competenza. Esatto. E poi è molto interessante sentirti dire che il tuo passato di atleta comunque non è una parentesi a sé stante, ma ti sta servendo tuttora, perché nella vita moltissimo, in effetti moltissimo. Tutto poi serve se lo si sa. Insomma, cadute, rialzarsi. È uno sport molto bello e delicato da vedere, ma ci vuole una tenacia da samurai per praticarlo, quindi diciamo che in questo lavoro artistico che faccio adesso, che è più un lavoro dell'anima, però comunque anche l'attore deve cadere e rialzarsi molto spesso, e sicuramente lo sport mi ha aiutato molto. Bene, tiriamo le fila invece con una conclusione concreta di chiamata non alle armi ma a teatro. Giovedì 5 febbraio al Teatro Celebrazioni di Bologna, Paolo Rossi e Caterina Gabanella con Operaccia Satirica alle 21. Sì. Venite in teatro con molte domande e aiutatemi a far improvvisare Paolo e a farlo andare ancora più fuori dai binari.